Welcome, Federico. All servers are ready. The security system is loaded. Ed eccoci ritornati dopo un mese di assenza. Dovete scusarmi, anche per me il Natale è stato fatidico per quanto riguarda la produttività. E io sono sempre Federico, il vostro conduttore di Medium, il podcast su Netrunner. Ora, volevo partire con una puntata, diciamo, normale, ma proprio ieri è uscito il nuovo data pack, e quindi direi che parliamo un pochettino delle nuove carte che effettivamente cambieranno, a mio parere, il meta in maniera considerevole. Partiamo subito con le carte di questo nuovo data pack, andando ad escludere chiaramente quelle che non hanno tanto senso per quanto riguarda sia il gioco sia il metagame. Allora, la prima di cui vi parliamo è Keyhole. Non vi sto a raccontare che cosa fa, ve lo guardate direttamente sugli spoiler. Questa è una carta che, pur consumando 2 di memoria, è assolutamente notevole per gli Anarch. A 3 di influenza sicuramente la vedremo quasi esclusivamente negli Anarch, ed è un po' quello che secondo me può rappresentare lo Sneaktor Beta per i Criminal, questo è per gli Anarch. Fondamentalmente gli Anarch non hanno mai avuto carte come questa capaci di sinergizzare così bene con carte altrettanto forti come Medium, che però Keyhole, al contrario di Medium, non si indebolisce quando la Corp decide di fare il wipe dei virus. Quindi fondamentalmente è una carta che rimane sempre in play, ha sempre lo stesso effetto, carica pesantemente su R&D e quindi ci dà la possibilità di fare una pressione eccezionale su R&D e chiaramente anche su archivi. L'effetto che fa molto semplicemente è un effetto di rafforzamento del potere di noise, quindi fondamentalmente non solo garantisce l'accesso a 3 carte, non è un vero e proprio accesso, diciamo che è un accesso nel senso che puoi vedere queste 3 carte e però non le puoi toccare, se non per il fatto che ne puoi trasciare una senza pagarne né il costo di trash e anche se non è possibile trasciarla. Quindi fondamentalmente fa un po' un effetto tipo Demolition Run, molto forte. Io gli darei tranquillamente un 5, se non, vabbè, 4-5. Secondo me la vedremo giocata molto in Anarch potrebbe essere l'inizio del ritorno. Quelle dopo sono Activist Support, non ve la commento nemmeno. Lawyer Up, allora, carta Criminal che ti fa pescare 2 carte, è un evento double, quindi ti consuma 2 click, ma oltre a farti pescare 3 carte ti rimuove anche 2 tag se ce le hai, fino a 2 tag chiaramente. Può essere interessante per chi gioca molto Siphon, ma anche le risorse, quindi non è un formato tag me. E per il resto sì, è un pescatore Criminal che prima non esisteva, ben venga. Non sposterà il meta, però probabilmente qualcosina lo vedremo giocato. Leverage assolutamente non lo vedremo giocato, per il semplice motivo che la corporazione può prendersi 2 bad publicity per poter evitare che l'effetto di leverage avvenga. Quindi se so che ti devo uccidere, prendo le 2 bad pub. Se so che non ti posso uccidere al prossimo turno, hai sprecato leverage, quindi vabbè. Garrot, allora, Garrot mi piace il giusto, nel senso che costa 7 e chiede 2 memorie, anche se è sicuramente la sentry breaker, diciamo, più efficiente in assoluto, ma probabilmente in qualche mazzo lo vedremo, ma secondo me poco o niente. LLDS processo, è tanto brutto tanto quanto è difficile pronunciare il suo nome. Sharpshooter, interessante, questo è un bel complemento anche ai mazzi che diciamo per sicurezza tenevano Deus Ex. Con questo Sharpshooter fondamentalmente in un certo senso inificiamo l'effetto dei vari rototurret e dei, come dire, program thrasher che ci sono fra gli ICE. Shaper non credo ne avesse bisogno, nel senso che comunque è già molto forte di suo come corporazione, avere anche questo strumento in più come corporazione, come fazione, avere anche questo strumento in più secondo me non aggiunge al gioco in generale e avvantaggia una fazione che è già abbastanza forte di suo. L'avrei visto molto più volentieri in un Anarch, anche se forse era un po' fuori tema per il tipo di Icebreaker, però ecco, in un Anarch andavi a splasharlo mettendolo nel senso, cioè a splasharlo, andavi a mettere nel momento in cui avevi paura magari che ti rompessero un gin o cose di questo genere, o perlomeno per fare dei face check più tranquillo, ecco. Vabbè, niente di che. Capstone, carta fortissima se la usi nei mazzi pensati per lei, carta combo diciamo, che ci devi fare un mazzo intorno, non vale la pena nemmeno starci a perdere tempo. Starlight Crusade Funding, direi che se ci fosse zero come valore glielo darei. Perdi un click tutti i turni, c'è già Wildside che fa un effetto sgravato, la gente ha smesso di giocarla, pensate questa qua. Rex Campaign non mi convince affatto, l'effetto di perdere una bad publicity non giustifica la presenza di questa carta nel mazzo e se la prendi per ottenere 5 Asbairoida, carte molto più efficienti per ottenere 5 soldi, visto soprattutto che poi per 3 turni la tieni esposta a pericolo di trash. Comunque Ferris è un ice interessante, diciamo che nei mazzi giusti è veramente interessante. Prendere la bad publicity non è mai bello, però effettivamente non essendo rompibile con i click, diciamo che Asbairoid ringrazia. Ma costo 4 è decente, visto che comunque è una sentry, quindi è difficile da rompere, e ha questa stranamente ha land run, quindi lo rende una delle sentry più forti in un certo senso, visto che ferma la run. Panic Button, allora, questa carta non so se ha senso oppure no, nel senso che veramente buona in mazzi combo dove appena faccio una run su headquarter la giro, mi pesco tutte le carte che mi servono per la combo e poi te le sparo in faccia al prossimo turno. In altri mazzi, boh, non so, mazzi particolari che vogliono mettere roba negli archivi perché così con Jackson Hour fanno i loro maccheggi, boh, non lo so, potrei dargli 1 o 5 a seconda di come si evolverà il mazzo, è una di quelle veramente che non saprei valutare. Shock, ne abbiamo già parlato anche in passato, anche nel forum e nel blog. Netrunner.it se ne è parlato ampiamente, è una carta veramente sgravata, 5 su 5, ecco, 5 stelline. Tsurugi, molto forte se l'avversario non ha un, beh sì, anche se ha un sentry breaker, perché comunque è molto costoso, quel 2 di forza lo rende un po' così, però onestamente valutiamo questo, quando è che le subroutine di un ice vengono eseguite, fondamentalmente una al massimo due volte nell'arco di una partita, nel senso che quando la rezzi perché sai che riuscirai a ottenere che le subroutine abbiano effetto, e magari il runner subirà l'effetto ulteriormente quando magari è alla fine che pensa di poter arrivare alla vittoria e quindi se ne sbatte del net damage perché pensa che non ci sarà un nuovo turno. Tsurugi a costo 6, ora è vero che Jinteki è diventato un pochettino più ricca nell'arco di questi mesi e quindi se lo potrebbe anche permettere. È molto interessante magari anche dal punto di vista del bluff, nel senso che se pago uno per farti passare è magari per darti un messaggio di dire ci sono altri danni che stanno arrivando quando sei passato, quando accedi, che ne so, se uno sta facendo una run su headquarter oppure su un server remoto, pagare uno per farlo passare e fargli prendere i danni è un bel messaggio che dice ce ne sono altri che stanno arrivando, ecco, altri danni che stanno arrivando. TGTBT, a parte il nome orrendo, un'agenda molto condizionale, non ve la sto nemmeno a raccontare. Fondamentalmente utilissima per i tag and bag, per gli altri, boh, non lo so. Una domanda, sì, no, niente. Niente, niente. Vabbè, Swipes Weak è una di quelle carte che cambieranno il meta, cioè un po' come Jackson Howard, diventerà un po' uno, tre pair in tutti i mazzi NBN e molti faranno a botte per mettersela anche nei mazzi non NBN perché chiaramente ad un costo così basso, cioè uno, ottenere 4 in più, quindi fare l'effetto di hedge fund, però senza il problema del dover raggiungere 5 soldi è veramente sgravata. Ora, io do per scontato che praticamente sempre garantirà 5 soldi perché in molti mazzi è fondamentale averci tante carte perché altrimenti ti faccio un tag mag piuttosto che un Ronin e ti uccido. In altri mazzi in generale, comunque, il runner vuole tenersi molte carte in mano e quindi contro alcuni mazzi è fondamentale, contro altri mazzi è molto probabile che il runner abbia parecchie carte in mano. Mi piace molto, secondo me, pur essendo veramente sgravata, in realtà è una carta abbastanza bilanciata, non essendo una transaction, fortunatamente Wayland non avrà il bonus. RSVP, continuiamo con i nomi merdosi, però è un ICE molto molto interessante, pur essendo un code gate, quindi essendo il più debole della categoria degli ICE, è interessante perché è molto tematizzato con NBN che dice, vabbè, io ti faccio passare, però ti creo delle condizioni tipo le trace, tipo tutti gli effettini NBN particolari come quelli di Data Raven o di Pop-Up Window che ti rende molto molto diciamo svantaggiato diciamo rischioso andare avanti. Questa carta se triggera ha un effetto veramente molto forte perché fondamentalmente o è un end run con il prossimo ICE oppure non puoi trasciare quello che vedi. Se per caso devi pagare per avere delle agende, per esempio con Red Herrings, non le puoi ottenere, ma insomma è molto interessante. Diciamo, secondo me vedrà degli usi alla stregua un po' di Chum, anche se Chum con un costo 1 e forza 4 chiaramente gli caga in testa questo RSVP. Va bene, Curtain Wall. Curtain Wall, dico solo una parola, Oversight AI. Se giochi Oversight AI, metti Curtain Wall, se non lo giochi puoi anche evitare. Oh, Punitive Counter-Strike. Chiaramente costa 3, non ti evita, ti fa mid damage anche in buone quantità. È una carta secondo me anche bilanciata perché comunque non te li fa in automatico, ma comunque genera una trace. Il rapporto costo-trace è molto interessante perché comunque ti fa guadagnare 2, nel senso che pago 3 per Punitive Counter-Strike, però poi è una 13 da 5, che è un ottimo rapporto. E se è successo, plausibilmente nei giochi, cioè quando giochi una Planet of Counter-Strike, perché ce n'hai un'altra e forse anche un'altra in mano. Ora, secondo me questa carta qua nel tag and bag ti permette di togliere i Source e gli Scorched Earth, però onestamente nel Wayland io giocherei più Scorched Earth. Questa è diciamo la Scorched Earth di chi non si può permettere 4 di influenza per le Scorched Earth fuori fazione. Io questa qui nel Jinteki ne metto 3 per istantaneamente, perché chiaramente in Jinteki le agende si perdono molto spesso e molto volentieri, ed è fondamentalmente il quarto, quinto e sesto Neuralamp, che in molti casi è anche un Neuralamp bello potente. Ora, visto che Jinteki, come abbiamo detto prima, un po' di soldini ce li ha, una 3 a 5 se la può permettere anche pompandola, quindi ben venga Punitive Counter Strike, secondo me non per Wayland. Comunque, Veterans Program, una bellissima agenda 3x1 che non fa mai male, neutrale, e sì, forse nel Jinteki che gioca tanti 3x1 potrebbe averci senso, però onestamente ha già una scelta molto ampia di 3x1, addirittura abbiamo visto con Clone Retirement la 2x1, quindi secondo me non vedrà giocata. In generale direi che le Corp hanno guadagnato di più che i Runner, anche se inesorabilmente i Runner, guadagnando sempre qualcosina, soprattutto sul fronte degli Anarch, avanzano inesorabilmente. Per ora vedo da parte della Fantasy Flight una volontà di far tornare le corporazioni in forza, soprattutto Jinteki. Andromeda, sì, è un po' stata ridimensionata grazie a questo Swipes Week. Direi che sarà comunque un archetipo molto potente, ma non sarà più l'unico archetipo da portare ai mondiali, ecco, diciamo è uno di quelli di Swipes Week, visto che Andromeda spesso si trova a giocare contro NBN, ha dato una bella botta ad Andromeda. Chiaramente, perché dico Andromeda? Perché se Swipes Week lo gioco di primo turno, avere un boost di 8, quindi chiudere il turno diciamo con Ice Swipes Week, mi porta ad avere, se non ho fatto male i conti, 13 soldi e 2 Ice installati, che sicuramente rezzerò entrambi, e quindi diciamo che ribilancia il potere tremendo che Andromeda ha nell'avere, non avere bisogno di pescare praticamente per 2 turni di seguito e poter aggredire. Ok, ditemi che cosa ne pensate sul forum di quello che ho detto delle cagate, ho detto addirittura degli errori magari tecnici, fatemelo sapere. Un'ultima cosa, sarei veramente molto interessato nel sapere chi di voi parteciperebbe eventualmente a un Kronos Protocol Tournament a Bologna. Questo perché chiaramente la Fantasy Flight, per non fare figure barbine, ha bisogno di 32 partecipanti, ma la Giochi Uniti si è svegliata domani e quindi non ha minimamente aiutato a creare almeno una data interessante per quanto riguarda questo tipo di gioco, e quindi ecco, sarebbe bello sentire da parte vostra un po' un grido di io ci sono, perché Francesco, l'organizzatore eventualmente del Kronos Protocol Tournament a Bologna al Circolo Evolution, deve chiaramente fare un investimento interessante nei limiti di questo mondo, nel senso che sono 120 euro, però vorrebbe sapere chi c'è e chi non c'è, non vorrebbe che chiaramente il Kronos, il torneo, diciamo, saltasse. Quindi fatevi sentire sul forum, chiunque mi ascolta si faccia vivo, anche solo per dire io no, non ci sono, perché chiaramente non è che vogliamo che tutti dicano sì sì ci sono, semplicemente se riuscite a esserci, diciamo nel mese di febbraio o marzo, per un torneo impegnativo che probabilmente terrà un pomeriggio più una sera, fatevi vivi, perché se non ci siete è bene che noi lo sappiamo, se ci siete siamo molto contenti e lo mettiamo in conto. Per quanto riguarda questa puntata è tutto, mi scuso ancora per aver fatto passare un mese dall'ultimo rilascio, vedrete che poi adesso col fatto che sono finite le vacanze sono più operativo, non so perché le vacanze praticamente invece che darmi del tempo libero in più me ne tolgono, vabbè. Ad ogni modo, grazie per l'ascolto e ci vediamo alla prossima. I've seen things you people wouldn't believe. The system will now go into maintenance mode. Thank you for using our services.